Ma sempre appunto sul tema delle monoculture, andiamo a Firenze e parliamo di turismo. Le città d'arte italiane, così duramente colpite dalla pandemia, sfidano la ripartenza. Ad iniziare da Firenze, che per prima invita i turisti a tornare grazie a una campagna straordinaria congiunta. Inizia così il comunicato ufficiale del Comune di Firenze che annuncia l'imminente ripresa del turismo di massa internazionale. Sarà bene mettere da parte le illusioni maturate in quest'anno di piazze e strade finalmente sgombere da cappellini e sandali con calzini, visto che è stata annunciata l'apertura del nuovo Rinascimento fiorentino. Parole che ormai risuonano familiari alle orecchie toscane, ma anche saudite, visto i numerosi viaggi del leader di Italia Viva, ancora enormemente influente nella giunta comunale, e le varie comparsate sui media arabi, alla ricerca di fiumi di denaro, beh, sporco, ci verrebbe da dire, magari non sempre, però sicuramente nero, dell'oro nero, da riversare nel fiorente mercato turistico toscano. La strategia elaborata è quella di un'attività di promo commercializzazione, così la chiamano, ideata da due fondazioni, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, in sinergia con il Comune di Firenze in collaborazione con Destination Florence Convention and Visitor Bureau e Cherché, e sarà rivolta inizialmente al mercato nazionale ed europeo per poi allargarsi, quando sarà possibile, a livello globale. Quindi ancora una volta l'amministrazione comunale ignora totalmente le voci che si levano dal basso e che di proposte ne hanno per invece favorire il sistema delle fondazioni che hanno la peculiarità di rendere molto poco limpidi i legami tra la politica locale e i grossi interessi privati, lasciandoli campo libero per qualsivoglia investimento. Ed è così che nascono nuovi pacchetti di promozione rivolti principalmente a chi ha il portafoglio ben fornito. La città del futuro che ci governa, che chi ci governa immagina è di nuovo quella ostaggio dell'overtourism, dichiara l'associazione Progetto Firenze, dove ad essere favorite sono le logiche della rendita, impoverendo il territorio e il lavoro, scacciando la residenza. La giunta è chiarissima: Firenze invita il turismo a tornare per anticipare e battere le realtà concorrenti, persino quelle che comunque sono sul nostro territorio nazionale, come Roma e Venezia. Completamente sparite le problematiche che pure la giunta riconosceva derivare dal fenomeno dell'overtourism. Investire senza riserve nella promozione del Rinascimento come brand da esportare in modo sempre più intensivo è un errore di cui tutta la città pagherà le conseguenze. Questo appunto è un comunicato di Associazione Progetto Firenze, è un'associazione che da anni lavora sul territorio fiorentino per fronteggiare l'enorme problema della turistificazione insieme al gruppo consiliare SPC all'opposizione. Noi intanto abbiamo deciso di collegarci con Grazia Galli al telefono. Grazia Galli, appunto, esponente proprio dell'associazione Progetto Firenze, che se i nostri potenti mezzi tecnici ce lo permettono, dovremo sentire fra pochissimo. Eccoci qua. Eccoci. Grazia, buongiorno e benvenuta al radiogiornale della Ciurma Pirata. Ciao, salve a tutte e a tutti. Ciao, senti, ci senti bene? Sì? Allora, stavamo appunto ora dando la notizia di questa nuova iniziativa del comune in collaborazione con le fondazioni e con un'azienda privata sul rilancio a livello sia nazionale che europeo, in una prospettiva appunto globale, del turismo che tanti danni ha portato alla città di Firenze. Ancora una volta purtroppo dobbiamo constatare che le voci delle persone che abitano nel tessuto urbano vengono ignorate, nonostante le proposte che sono state fatte, perché in quest'anno si sono mosse. Che cosa è successo su questo fronte nell'ultimo anno difficile di pandemia? Ma è successo che sono state dette molte cose e accese molte speranze, però poi nei fatti tutti quei provvedimenti che erano stati invocati, credo tutti abbiano letto le interviste anche sulla stampa nazionale del sindaco Nardella, appunto queste prese di consapevolezza di quanto la città fosse stata preda del turismo e rivelatasi vuota durante la pandemia, poi però non si sono tradotte in atti concreti, almeno fino adesso. di regole e nuove impostazioni a tutela di quello che è il territorio, che è un discorso che poi non vale solo per Firenze, vale un po' per tutta la Toscana, un po' per tutta l'Italia, perché se certamente è vero che il settore del turismo è un settore che in questo momento ha bisogno di essere aiutato, sia chi fa impresa, sia chi ci lavora, e tutto l'indotto che è molto più grande di quanto si pensasse. Però è anche vero che anche per questo settore mancano tutele e mancano certezze, e ci stiamo invece avviando di corsa verso cercare di riprenderlo e cercare di ritornare alla situazione pre-pandemia senza esserci prese la briga di stabilire delle tutele per il territorio. Faccio solo un esempio: una delle cose che noi abbiamo chiesto da sempre sono nuove regole per la ricettività e per tutte quelle che sono le attività dedicate esclusivamente al turismo. Regole che stabiliscano e permettano all'amministrazione di regolarle in equilibrio con quello che è un tessuto urbano, con quello che sono i servizi alla cittadinanza. Invece stiamo ripartendo di nuovo nella stessa situazione, con condomini che si svuotano perché si riempiono. Va bene, eccoci. Eccoci, ora mi senti? Sì, era caduta la linea. Ora non so a che punto eravate caduti. Quello che stavo dicendo è che stiamo ripartendo nella stessa maniera, senza protezioni come eravamo prima, con la certezza a questo punto di ritrovarci a breve a doverci riconfrontare con gli stessi problemi di prima, ma aggravati da una situazione su cui si è andata anche innestando la povertà, le difficoltà e la crisi lasciata dalla pandemia. Ecco, appunto, nell'arco dell'ultimo anno, ultimo anno e mezzo, sono nate delle realtà che cercavano di portare delle proposte sul tema. Intanto, quali erano queste proposte, oltre a quella dicevi sulla ricettività e, fra l'altro, e anche il perché un'amministrazione comunale si perora nell'ignorare queste voci, mentre invece dà spazio a realtà come quelle delle fondazioni o delle aziende di promozione vera e propria. Ma ora sul perché, questo non è soltanto l'amministrazione comunale, diciamo che questo è un po' la foga di tutta, vale per tutta la regione, ma vale anche per tutta l'Italia, cioè questa fretta di ripartire cercando una ricchezza consistente e veloce come quella che arriva dal turismo, ammesso che veloce sia, perché ovviamente il turismo internazionale, che è quello che porta tanta ricchezza, non ripartirà con gli stessi numeri a breve. Non credo che ci sia malafede, c'è purtroppo un'incapacità da parte della politica in generale di riuscire a vedere le cose in prospettiva e di riuscire a imporre una visione che tenga conto di tutte le parti in causa, ma invece si ignorano sempre i conflitti, si no, ignorano cercando di, semplicemente di rimuoverli invece di porre una soluzione. Qui veniamo alla prima parte della tua domanda, le proposte sono tante, ma soprattutto la richiesta è quella di utilizzare gli strumenti urbanistici e l'occasione c'è, in particolare a Firenze, che è al momento è impegnata a ridisegnare un nuovo piano operativo, stabilendo delle nuove categorie urbanistiche che consentano a questo punto sia al pubblico di normare ed eventualmente porre degli argini, ma sia anche ai privati, come menzionavo prima, ai condomini, di arrivare a distinguere quelle che sono le famiglie da quelle che sono le imprese e poter ripartire costi e eventualmente anche regolamentare sulla base di un riconoscimento anche legale di quella che è una natura differente. Poi di proposte ce ne sono tantissime che però appunto riguardano la progettazione politica di una città, che riguarda per esempio dare una priorità differente a quella che è lo spazio abitativo residenziale di edilizia pubblica e anche lì chiarire delle ambiguità di fondo che non sono solo del Comune di Firenze, sono nazionali, perché ora leggiamo che nel nuovo piano Recovery Plan ci sono degli incentivi che sembrerebbero essere destinati agli student hotel e agli studentati, che sono una categoria molto equivoca, perché si va da quella che è una categoria, una struttura di servizio sociale, a invece quella che di nuovo torna ad essere una struttura ricettiva vera e propria. Quindi ci sono tantissime cose che si possono fare, ma soprattutto quello che va fatto è chiarire che le città non sono aziende di promozione del territorio. I comuni sono organi amministrativi che devono governare la città, governando per l'appunto i conflitti che ci sono tra tutte le parti in causa, e i residenti devono tornare ad essere una delle parti riconosciute con cui interloquire e confrontarsi. Ecco, per questo, fra l'altro, è nata proprio un'assemblea, mi ricordo, nella primavera scorsa. Ma ci sono state varie assemblee, ci sono stati vari gruppi, c'è stata la richiesta di un consiglio di quartiere aperto alla cittadinanza. Ora il gruppo di Sinistra Progetto Comune sta raccogliendo le firme per chiederne di nuovo uno. In questo, diciamo, il gruppo dei consiglieri comunali di quartiere è anche molto attivo, così come ci sono tantissime altre realtà in città che cercano di promuovere un'interlocuzione con l'amministrazione. Ad oggi parrebbe che l'amministrazione ha una predilezione a confrontarsi con comitati selezionati, che sono poi quelli che si riuniscono intorno a una richiesta, diciamo, securitaria, e sempre attraverso questi patti di collaborazione che sono più volti all'implementazione appunto di un sistema di controllo che non un sistema di Ecco. progettazione condivisa. Ecco, fra l'altro, guarda, ne approfitto, finisco di leggere la notizia che proseguiva così, appunto, intanto i preparativi per la ripartenza del turismo vanno avanti anche sul piano della preparazione degli spazi pubblici. È stato infatti annunciato tramite un comunicato la collocazione di una cordonatura intorno al sagrato della Basilica di Santo Spirito, oltre all'apposizione di chiodi fiorentini in una via limitrofa e l'installazione di altre quattro telecamere di videosorveglianza che a detta loro dovrebbero essere sufficienti a far scomparire il fastidiosissimo degrado provocato da persone che bevono una birra in bottiglia comprata dalle botteghe popolari che sono sparse nella città. Quindi queste sono un po' le notizie che poi alla fine hanno la prima pagina sui giornali e effettivamente vanno tutte in una direzione securitaria, anche se poi i risultati, poi non so, magari mi smentisci, però i risultati di queste azioni securitarie sono molto dubbi, visto quanto succede in città. No, certamente sono dubbi, perché quello che fanno, diciamo, anche mettendosi dal punto di vista di chi li adotta, quello che fanno è semplicemente spostare il problema da un punto all'altro della città, e piano piano così la città è cordonata e si continua a sottrarre spazio pubblico. Però di nuovo anche questo è un po' figlio di una rimozione dei conflitti, perché anche lì ci sono state legittime rimostranze da parte di residenti che si sono dovuti confrontare con dei problemi che sono indubbiamente reali, e con quello che poi è diventato però un territorio di scontro, no? Tra parti in causa, nessuna delle quali è stata capace di interloquire con l'altra, mettendosi dal suo punto di vista e riconoscendolo. Però, di nuovo, soprattutto questo, c'è un'amministrazione che rispetto al fare pipì in strada continua a non porsi il problema del fatto che i bagni pubblici pubblici prima della pandemia erano aperti soltanto in certe ore e solo a pagamento, anche per i residenti, anche per gli anziani che devono andarci 4-5 volte al giorno, anche per chi i soldi per pagarle non ce l'ha, e quello è un servizio pubblico essenziale, è un servizio di salute. E poi durante la pandemia, in seguito alla pandemia, questi bagni sono costantemente chiusi, sono in quella piazza che tu menzionavi, sono stati aperti con dei pass per i clienti dei locali. Quindi c'è dietro poi alla fine un atteggiamento di dire non riconosciamo i problemi reali, oppure riconosciamo i problemi soltanto di alcuni, ma non di altri, che è di nuovo una prospettiva miope, perché anche in termini di, se non la vogliamo mettere in termini di diritti, ma la andiamo a mettere in termini di costi, se si facesse il bilancio di quello che effettivamente costa un servizio di bagni pubblici delegato alle cooperative sociali o comunque al privato che ci deve trarre un profitto e quindi le tiene chiuse ora, e ci sommi poi tutto quello che devi spendere per affrontare le conseguenze di questo, cioè la pipì ovunque, la cacca ovunque, forse anche da quel punto di vista lì è una scelta che si rivela sbagliata e molto più costosa per le casse pubbliche che non affrontare il problema per quello che è. Infatti noi ne parlavamo anche settimana scorsa, un po' rifacendoci un articolo noi che abbiamo un po' preso come, come luce da seguire, un articolo comparso su Minimum Morali a fine gennaio di Christian Raimo, raccontava proprio tutta l'evoluzione della movida dalle sue origini spagnole nell'immediato post-franchismo a quello che invece ad oggi viene considerato come movida, e che lui sosteneva appunto abbia il problema di non essere affrontato, di non essere realmente politicizzato, bensì preso un po' come specchietto, no? Comunque il discorso è molto ampio, non abbiamo tutto questo tempo, quindi grazie, direi che ci possiamo intanto salutare per ora, poi sperando di risentirci molto presto. Grazie a voi, arrivederci. Allora grazie e ancora buon lavoro all'Associazione Progetto Firenze. Ciao.